Siamo lodati Gesù e Maria. Il grande grido di questa celebrazione di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, lo abbiamo sentito nella sequenza di Pasqua che ha introdotto la lettura del Vangelo. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Ecco, sono queste le parole con cui la Chiesa ci invita ad entrare in questo giorno e cercheremo di approfondirle meditando un po' sul Vangelo che ci racconta il giorno della risurrezione alla luce dei primi tre testimoni, che sono Maria di Magdala, San Pietro e l'altro discepolo che non si nomina perché è l'autore del Vangelo, ma che era San Giovanni, penso che tutti sappiate, il discepolo prediletto del Signore, quello che lui amava. Vediamo questo Vangelo alla luce dei testimoni. Maria di Magdala, sapete tutti quanti chi era, spero, una grande, grandissima peccatrice che dopo aver incontrato e ascoltato Gesù si era profondamente convertita, era passata da una vita di grandissimo peccato ad una vita di grande santità ed era stata una delle sole tre donne che con San Giovanni hanno avuto il coraggio di stare sotto la croce al momento della morte cruenta, terribile, di Gesù. La prima a recarsi al sepolcro. Ora attenzione a una cosa, il fatto della risurrezione di Gesù, cioè l'evento della risurrezione, non lo ha visto nessuno. Quando Gesù si è fatto carne, sapete, no? L'arcangelo Gabriele è andato dalla Madonna, la Madonna ha detto ecco l'ancella del Signore, quindi lei lo sapeva che il Verbo si era fatto carne. Quando è nato, l'ha fatto nascere lei. Ma la risurrezione di Gesù non l'ha vista nessuno, eh? La Madonna non c'era al sepolcro quando Gesù è risorto, neanche lei l'ha visto. La tradizione della Chiesa antichissima ci informa e tutti i papi ce l'hanno ricordato, uno dei più fervorosi nel farlo era San Giovanni Paolo II, e certamente Gesù risorto, la prima persona che è andato a salutare e a cui è apparso era la Madonna, che tra l'altro è stata, come vedremo, l'unica a conservare intatta la fede nella risurrezione. Ma la Madonna non c'era, quindi capite cosa è successo, perché l'Evangelista San Giovanni ci fa una grande catechesi attraverso questo Vangelo. Maria di Magdala era innamorata del Signore, aveva sentito la sua parola, aveva certamente sentito da lui l'annuncio della sua passione e della sua risurrezione. Tante volte, tre volte Gesù aveva detto ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo adesso andrà a Gerusalemme, sarà flagellato, sarà coronato di spine, sarà crocifisso e il terzo giorno risusciterà. L'aveva detto. Ma chi ha mantenuto la fede in queste promesse del Signore, capite, dinanzi alla tragedia del Golgota? Come reagisce Maria di Magdala? Va al sepolcro e vede che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Vi faccio una domanda, vediamo se sapete rispondere. Chi l'ha tolta la pietra dal sepolcro, secondo voi? L'ha tolta Gesù per uscire? Quindi gli ha dato una smossa a lui? O no? O l'ha tolta qualcun altro? Oggi non mi risponde manco Barbara, mi devo preoccupare. Non l'ha tolta Gesù, perché Gesù non aveva bisogno di togliere la pietra dal sepolcro per risorgere. Lo dimostra, lo sentiremo nel Vangelo di domenica prossima, il fatto che la sera di Pasqua lui è entrato nel cenacolo e apparso agli apostoli, vi ricordate? A porte chiuse, perché un corpo glorificato, ricordate, fate attenzione, oggi in questa messa rinnoviamo anche la fede nella nostra risurrezione vera della carne, eh? Spero che ci crediate. Quando il nostro corpo risorgerà, sarà come il suo, un corpo vero, ma non più soggetto alle limitazioni attuali, alle miserie attuali, alla necessità di essere circoscritti in un luogo, al fatto che se io adesso esco dalla porta della chiesa senza aprire la porta, posso pure provare, non ce lo si provate, mi raccomando, adesso l'uscita, perché sbatti la testa al muro e ti fai male, ma dopo non sarà così. Quindi la pietra non l'ha capovolta lui, è il Vangelo di San Matteo che ci dice chi sono stati a rotolare la pietra. Sono stati gli angeli, perché Dio voleva che si vedesse la tomba vuota, perché tutti si interrogassero: come come mai la tomba è vuota? Che è successo? E Maria di Magdala, che pure tanto amava Gesù, che cosa pensa? Corre da Simon Pietro e dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. La cosa umanamente più normale, no? Vai, c'è stata una sepoltura, vai, trovi la pietra rimossa, non trovi il cadavere, dice: qua qualcuno ha profanato la tomba e se l'ha portato via, giusto? Guardate, dobbiamo fare attenzione, dopo farò qualche considerazione. Allora va il Papa, andate a dirlo al Papa, perché San Pietro era il Papa, San Pietro e San Giovanni, che non era il Papa, però come ci informa nel Vangelo era anche lui l'innamorato di Gesù, ma a differenza di Maria di Magdala c'aveva una marcia in più. Chi è che ci arriva? Qual era la marcia in più che c'aveva San Giovanni che poi gli consente di capire di essere il primo, dopo la Madonna, a farsi tornare la fede nella risurrezione? Sapete qual era la marcia in più che c'aveva San Giovanni? Era innamorato ed era l'apostolo vergine, era il più giovane di tutti. Era vergine, la verginità non soltanto del corpo, ma la verginità anche dell'anima, che ti apre e ti dilata alla comprensione dei divini misteri. Allora che succede? Vanno tutti e due al sepolcro. San Giovanni corre più veloce, non solo perché era più giovane, dicono i padri della Chiesa, ma perché lui non vedeva l'ora di andare, perché anche San Giovanni stava sotto la croce, voleva vedere che era successo. Poi per rispetto però fa entrare prima il Papa. Vediamo un po', che dice il Vangelo? Secondo voi Pietro è entrato nel sepolcro, gli è ritornata la fede nella risurrezione o ancora no? Il Vangelo ci lascia un pochino perplessucci, diciamo così. Simon Pietro entra, osserva i teli e il sudario, non posato con i teli ma avvolto in un luogo a parte. San Giovanni, per carità e per rispetto verso San Pietro, non aggiunge altro, ma se ci avesse creduto avrebbe scritto e disse: uè, il Signore è risorto, andiamo a dirlo a tutti gli altri. Non l'ha scritto, quindi presumibilmente non l'ha pensato. Poi entra anche l'altro discepolo, dice il Vangelo, che era giunto per primo, ma per rispetto aveva fatto entrare prima il Papa. Vedete che a volte i discepoli superano anche le grandi autorità. Sapeste quanti bravi fedeli hanno una fede che fa invidia a tanti ministri, eh? Chiuso parentesi, che oggi è Pasqua, lasciamo perdere questi discorsi. E lui vide e credette. E come mai? Che è successo? San Giovanni aveva l'occhio acuto. Sapete che cosa ha visto e ha capito? Ce lo dicono oggi gli studiosi della Sacra Sindone. Conoscete cos'è la Sacra Sindone tutti quanti, no? Perché ricordate che Gesù ci vuole talmente bene che oltre a tutti i miracoli che ha fatto da vivo, ne ha fatto pure uno da morte, da morto, entro il sepolcro, ci ha lasciato la sua immagine nella Sacra Sindone. Avete mai visto il telo della Sindone, no? Sapete che il lenzuolo funebre era completamente posato sulla persona, no? Ora immaginate la faccia. Se io mi metto un panno sulla faccia, no? E supponiamo che mi si imprima la mia immagine sulla faccia, quando apro il telo, capite che la faccia ha delle proporzioni abnormi, perché mi prende così, no? Non è come una fotografia, si imprime in maniera deforme. Sulla Sindone, secondo voi, è questo il modo in cui è impresso la faccia di Gesù? No, perché è una faccia perfettamente ovale, certamente è una faccia dove si vedono tutti quanti i segni della passione, no? Ma è una faccia, quindi, capite, che non dipende dal contatto quando era morto, ma dipende da un qualche cosa. Detto in altre parole, Gesù, quando è risorto, secondo voi, cosa ha fatto? Si è svegliato e si è tolto il lenzuolo e è uscito? Stessa domanda di prima. Oppure ci è passato attraverso? Chi di voi ha visto La Passione di Mel Gibson, l'ultima scena, molto bravo, si vede molto bene questa cosa. C'è l'immagine del sepolcro e c'è un primo piano sulle lenzuola che si abbassano senza che nessuno le tocchi, cioè Gesù ci è passato attraverso le lenzuola. Allora San Giovanni che ha fatto? Ha visto che questi teli stavano stesi, dice, non l'hanno trafugato, perché altrimenti avrebbero lasciato tutti quanti i teli in giro. Ci è passato attraverso, si è ricordato e ci ha creduto. Capite che bello? Allora, concludiamo. La giornata di oggi provoca la nostra fede, perché mica è tanto scontato crederci che il Signore è veramente risorto. Noi dobbiamo crederci, chiederci, ci chiediamo veramente che il Signore è veramente risorto. Cos'è questo giorno? Sapete che per molte persone la Pasqua, basta vedere un pochino qui in giro per Sermoneta che sta succedendo, sapete come dicono i proverbi, no? Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Pasqua molto spesso diventa, salvo i presenti ovviamente, un'occasione per le baldorie o per le gite fuori porta. È un modo per fare festa. È tutto qui? O il nostro cuore oggi è in festa perché è successo il fatto più importante di tutti? Perché se Gesù Cristo è veramente risorto, guardate che succedono queste cose, ve le dico in sintesi. Primo, vuol dire che è Dio. Secondo, se è Dio, vuol dire che morto per i nostri peccati è risorto per la nostra giustificazione. Tutti noi possiamo risorgere già da adesso con Lui, vivere una vita nuova. Quando siamo morti, saremo morti, non è che andiamo a finire sotto un metro di terra, abbiamo la speranza della vita eterna. La sua risurrezione è il pegno della nostra, attendiamo la risurrezione della carne, quindi la vita cambia da così a così, se è veramente risorto. Se non lo è, allora il Vangelo di oggi, e concludo, ci lascia anche un ultimo input molto importante. Capite che qui c'è una tragedia, quello che è successo il Venerdì Santo, che ha una significazione del tutto particolare alla luce della fede. Quello che è successo a Gesù succede molte volte anche a noi. Quando viviamo un momento buio, quando viviamo un momento di prova, quando viviamo un momento di tribolazione, noi siamo capaci di leggerlo alla luce della fede oppure rimaniamo terra terra come Maria di Magdala che dice hanno portato via il cadavere? Quindi non riusciamo a decodificare e a comprendere in maniera soprannaturale gli eventi anche drammatici che accadono, avere la croce illuminata alla luce della fede per il mistero della risurrezione. Questa è l'altra domanda, l'altra provocazione che ci lascia questa celebrazione. Bene, io vi auguro sotto questo punto di vista una santa Pasqua a tutti, e cioè che tutti crediate che il Signore è veramente risorto e che alla luce di questa fede tutta la vostra esistenza possa essere trasformata, trasfigurata e trovare nel risorto la pienezza di senso e di significato. Siano lodati Gesù.